Radio 24 e Fondazione Sigma Tau presentano Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza, con Federico Pedrocchi. Potete vincere un pezzetto di luna? Sì, è vero. Adesso ascoltate infatti i titoli e poi dopo ne parliamo subito. Mettetevi al posto di Neil Armstrong quando poggiò il piede sulla luna e dite la vostra frase storica. La migliore vince un pezzo di luna. La Terra si allontana dal Sole, 15 centimetri all'anno. Anche gli altri pianeti fanno la stessa cosa. Il fenomeno era noto, ma ora è stato misurato con precisione. Seconda stella a destra, guida turistica per un viaggio fra i pianeti del Sistema Solare. Anno astrale 12.009. Dove alloggiare, dove mangiare, cosa vedere. Risparmio energetico nel campo agroalimentare, dove si spreca e quanto si può guadagnare. La ricerca scientifica finanziata dalla Comunità Europea, una sintesi dei casi di successo, ma anche dei temi irrisolti. Riconoscere i volti. Si impara dalle esperienze visive fatte da piccoli e dipende dalle relazioni sociali. Tutta la fisica che bisogna sapere se si vuol diventare il presidente degli Stati Uniti. Allora il titolo potrebbe essere «Giochiamo anche noi», di questo si tratta. Il settimanale inglese di scienza New Scientist, una delle riviste di divulgazione più belle al mondo, forse la più bella, ha lanciato un concorso nel quarantennale dello sbarco sulla Luna. Ve la ricordate la famosa frase di Armstrong? «È per me un piccolo passo, ma un grande balzo per l'umanità?» Ecco, una roba così. Bene, al suo posto, voi cosa avreste detto? Questo è il concorso. Abbiamo chiamato Roger Highfield, il direttore di New Scientist, e gli abbiamo chiesto se la nostra trasmissione Mebius e Radio 24 potevano giocare. Lui ci ha detto che è molto contento e che più gente partecipa al gioco e meglio è. Bene, allora eccoci qui, si parte e bisogna far arrivare le frasi entro il 29. Cosa si vince? Un pezzetto di luna. Non ci credete? I'm Roger Highfield, I'm the editor of New Scientist. Questo è il direttore di New Scientist e la sua voce, Roger Highfield, che appare in un piccolo video sul sito nel quale lui dice che si può vincere un pezzetto di luna e lo fa pure vedere. Andate al nostro di sito www.moebiusonline.eu e troverete molti più dettagli. A New Scientist hanno già iniziato a scrivere, ci sono molte espressioni divertenti, per esempio Armstrong, vedendo tutta la polvere lunare, dice perbacco, avrei dovuto portare secchiello e paletta. Oppure rivolgendosi a Buzz Aldrin, il suo collega, dice cerchiamo di non dimenticarci dove abbiamo parcheggiato, oppure non ci posso credere, ha funzionato. Questa è senz'altro era una frase che realmente ha pensato. Oppure ci sono anche frasi più serie, siamo una umanità troppo piccola per un evento così grande. Voi mandate le vostre frasi a mebius@radio24.it oppure anche a redazione@mebiusonline.eu. Devono essere brevi e certo se ce le mandate in inglese, beh, sarebbe meglio. Ci sarà una giuria della redazione della radio che a suo inappellabile giudizio sceglierà le migliori e le manda a New Scientist. Andate al sito nostro www.mebiusonline.eu e trovate maggiori dettagli. Bene, partecipate. E adesso restiamo nello spazio, raggiungo Paola Rebusco negli Stati Uniti via Skype come sempre. Ciao Paola. Ciao, buonasera. Parliamo di un fenomeno che già si conosceva da tempo, però devo essere preoccupato o no? No, nessuna preoccupazione, solo una curiosità direi. Va bene, allora, il titolo l'avranno già sentito i nostri ascoltatori, La Terra si allontana dal Sole di 15 centimetri ogni anno. Da quando sappiamo questo dato? Questo dato lo conosciamo dal 2004, però la spiegazione è nota solo da pochi giorni, questa è la novità. 15 centimetri l'anno, consideriamo che la distanza Terra-Sole è di 15.000 miliardi di centimetri. Già. Quindi 15 centimetri l'anno non fanno molta differenza. Cioè ad occhio e croce, ma questo magari lo diciamo dopo, dovrebbe essere successo prima qualcos'altro, no? Prima che diventi un problema essere lontani dal Sole. Da che cosa è dovuto questo fenomeno? Allora, si sono identificate due cause. La prima è il fatto che il Sole perde massa e questo avviene in due modi. Da un lato continua il processo di fusione e dall'altro emette delle particelle in quello che chiamiamo il vento solare. Il Sole perde massa significa che la sua attrazione gravitazionale sulla Terra, sugli altri pianeti, diventa meno forte e quindi queste tendono ad allontanarsi. Quindi non riguarda solo la Terra ma tutti i pianeti del Sistema Solare. Esattamente. E in realtà questo effetto è importante, ma non riuscirebbe a spiegare 15 centimetri l'anno. C'è un'altra spiegazione, è dovuta al fatto che la Terra e gli altri pianeti creano delle specie di gobbe sul Sole, delle deformazioni dovute alla loro presenza, alla loro massa. Un po' come gli effetti marea. Esattamente come l'effetto di marea della Luna sulla Terra. E quindi, come conseguenza, il Sole rallenta di 3 millisecondi per secolo. Un'inezia, però Come? sufficiente. Però è sufficiente perché quello che succede è che nel sistema, diciamo Terra-Sole, poi ci sono chiaramente anche tutti gli altri pianeti, però nel sistema tutto intero c'è un rallentamento e per poter conservare momento angolare, la Terra si allontana. È un po' quello che succede se pensiamo alla ballerina sul ghiaccio, sui pattini. Una ballerina che sta ruotando con le braccia aperte, ruoterà ad una certa velocità, quando avvicina le braccia al corpo ruota molto più velocemente e di nuovo se le riallarga rallenta. Questo è appunto per la conservazione del momento angolare. E l'idea è analoga, che il Sole rallenta e quindi la Terra, che possiamo pensare come le mani della ballerina, si allontana. Sì, perché quello che allora potremmo dire è che la ballerina ci mette del suo, allarga le braccia e si ha questo effetto di rallentamento, però Sì. comunque la ballerina rallentando avrebbe Una spinta una verso. spinta delle sue braccia verso l'esterno, no? Che poi proprio per il gesto atletico che deve fare la ballerina lo accentua, no? La pattinatrice lo accentua. Tu dicevi possiamo pensare che la terra è la mano e quindi si allontana. Esatto, e in realtà questo meccanismo lo conosciamo già da parecchio tempo nel sistema Terra-Luna, perché quello che succede è che ci sono le maree nei nostri oceani che sono causate dalla Luna, queste rallentano la Terra, come conseguenza l'orbita della Luna si espande di circa 4 centimetri l'anno. Senti, ma allora ritorniamo al punto iniziale. Distanza Terra-Sole 15 centimetri, se facciamo una divisione dovremmo trovare gli anni. Però mi pare di capire che viene fuori un numero di anni che è probabilmente di molto superiore a quanto si prevede sarà la durata del Sole così com'è. Sì, beh, allora il Sole pensiamo che abbia una vita ancora di circa 5 miliardi di anni e poi quello che succederà si espanderà come una gigante rossa e dopodiché si raffredderà in una nana bianca. Ora, tutti questi fenomeni avverranno prima che l'allontanamento Terra-Sole diventi realmente significativo, perché appunto abbiamo solo 15 centimetri su una distanza di Quindi 15 mila miliardi di centimetri. possiamo essere tranquilli da una parte e dall'altra sappiamo. Ma dall'altro sappiamo che il nostro destino è comunque quello di venire almeno, se non altro, arrostiti quando il Sole si espanderà come gigante rossa, se non avviene qualcos'altro prima. Tu dici il nostro destino, ma ho la sensazione che la trasmissione finirà prima, eh? Sì, decisamente. Ciao Paolo e buon lavoro. Ciao, alla prossima. Nebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. Pronti? Siamo al nostro gioco che sarà sempre spaziale. Siamo al quiz. La domanda breve è la seguente: cosa significa il termine terraforming? Tre possibilità. Allora, la prima, quando un pianeta ha delle caratteristiche piuttosto simili a quelle della Terra, si dice che la sua storia deve essere stata caratterizzata da fenomeni di terraforming. Ci scriverete simile. Seconda possibilità, il termine rimanda ai progetti nei quali si pensa di costruire grandi basi permanenti per astronauti terrestri, anche addirittura per popolazioni su altri pianeti. Ci scriverete pianeti. Terza e ultima possibilità, è il progetto spaziale più grande che si possa immaginare, trasformare un pianeta desolato, Marte per esempio, in un luogo simile alla Terra, liberando e tramutando, per esempio, in vapore acqua e quindi generando ossigeno, enormi quantità di ghiaccio presenti nel sottosuolo. Ci scriverete ghiaccio dove? Con il solito SMS al 349-238-6666. Il libro che si vince è Fisica per i presidenti del futuro, la scienza dietro i titoli dei giornali, scritto da Richard Muller, edizioni Codice. Di questo libro vi parleremo più avanti nella trasmissione. In collaborazione con IBS.it. E abbiamo qui già in linea i nostri due ospiti, perché vi stiamo parlando di Seconda Stella a Destra, che è un libro pure questo. I nostri due ospiti sono Andrea Bernagozzi. Buonasera Bernagozzi. Buonasera a lei e a tutti gli ascoltatori. E Davide Cenadelli. Buonasera a tutti. E qui con me c'è Chiara Albicocco. Ciao Chiara. Buonasera, buonasera a tutti. Stiamo per partire stiamo per chiedere consigli su un viaggio. Un viaggio molto particolare, una meta abbastanza distante, oserei dire. Sì. Quello che abbiamo tra le mani è una guida tradizionale per andare sulla nostra galassia, nel nostro sistema solare. Sì, guida turistica al sistema solare, appena uscito, edito da Sironi. Allora Bernagozzi, siete tutte e due, presentatevi un po' voi, insomma, siete sempre nell'ambito dell'astrofisica e dell'astronomia come preparazione, come lavoro, no? Esattamente, io in questo momento mi trovo in cima a una montagna in Valle d'Aosta all'osservatorio astronomico dove lavoro come ricercatore. E Cenadelli anche, no? È un osservatorio. E io sono all'Università di Milano dove lavoro come fisico, con appunto tendenza a specializzazione nel campo dell'astrofisica. Ecco, voi avete scritto questa guida che è proprio una guida turistica tradizionale. Dove mangiare, dove alloggiare, cosa vedere, come divertirsi, dove? Tradizionale fino a un certo punto, nel senso che è una guida proprio alla visita del sistema solare. Quindi dove mangiare i migliori piatti sugli altri pianeti, dove trovare i migliori parchi di divertimenti nel sistema solare, e quindi insomma una guida un attimino futuribile, diciamo. Si immagina infatti che sia scritta fra 10.000 anni. Ecco Bernagozzi, se io e Federico volessimo partire, che cosa dovremmo preparare nella valigia? Beh, ovviamente bisogna portarsi dietro tutto il necessario che potete miniaturizzare nella vostra valigia. Non dimenticate per esempio il chip neurale, che vi serve per poter scaricare i file dell'enciclopedia galattica, ecco. In maniera che visitando le varie tappe siate già preparati sui vari luoghi che potrete incontrare. Questo per esempio mi sembra molto importante. Federico, è importante non arrivare impreparati. Sì, infatti. Cenadelli, ci sono gli astrocrediti da procurarsi? Sì, certamente. E ogni astrocredito vale approssimativamente come un euro oggi, quindi diciamo che in 10.000 anni l'inflazione non è stata particolarmente pesante e significativa. Ah, perché ci siamo dimenticati di dire che la guida è ambientata, cioè è trasportata nel futuro, precisamente nel 12.009? Esatto. È il decimillesimo anniversario, insomma, di questo 2009. Senta, questa fonduta di acciughe con fontina liquefatta per il raggiamento solare diretto è una ricettina che dove si prende? Troviamo su Mercurio? Bernagozzi. Esattamente su Mercurio, sì. Ovviamente la guida è ambientata nell'anno 12.009, perché d'altronde è anche l'anno internazionale dell'astroturismo. Peraltro però diciamo certe tradizioni si sono tramandate nel futuro. La fonduta che per esempio qua fanno i miei colleghi in Valle d'Aosta ovviamente trova un altro ambito quando la si fa su Mercurio, un pianeta molto vicino al Sole, il più vicino al Sole del Sistema Solare, e lì il formaggio è come se si scioglie. Ecco, senta, invece io che ci tengo ai divertimenti, quale pianeta mi consiglia? Ho sentito dire che su Venere non si sta certo male, ci sono dei locali esclusivi. Cenadelli. Sì, diciamo che un po' in tutti i pianeti, anche sui satelliti di molti pianeti si può divertire in moltissimi modi. Su Venere per esempio si può fare pratica di orienteering nell'atmosfera densissima ed estremamente nebbiosa, ma si può fare veramente di tutto. Sugli asteroidi si fa il bungee jumping, dove grazie alla gravità molto ridotta si possono fare dei salti immaginabili sulla Terra. Comodissimo questo. E poi ho letto anche di un locale esclusivo su Venere, sempre su Venere. Ah, tu hai già visto un po' la guida. Com'è? Sì. Che locale è? A dire la verità, il locale più esclusivo del sistema solare, se posso dare un consiglio in qualità di autore della guida, prego. Sono sicuramente quelli sulla Luna, e più sì, vicino. Perché ovviamente è stato il primo corpo celeste raggiunto dall'umanità nel XX secolo addirittura, e quindi lì c'è una tradizione di esperienza, di accoglienza dei turisti molto più lunga che in tutti gli altri posti del sistema solare. Ah, vabbè, allora ce la consiglia come tappa principale, insomma, partiamo da lì. Senta, discoteca sulla Luna, assolutamente. Senta, io volevo portarmi una canottiera, una maglietta, cotone dentro e magari titanio fuori, ho la sensazione. Sì. Ci sono posti un po' freddini in cui però potrebbe essere interessante andare. Beh, per esempio Urano è il pianeta più freddo del sistema solare, e lì diciamo è opportuno andare assolutamente ben vestiti, anche se le basi permanenti che sono state costruite, diciamo stabilizzate con dei retrorazzi presso la superficie di Urano, sono ovviamente riscaldate naturalmente, perché altrimenti si andrebbe a 150-200 gradi sotto zero, il che ovviamente non è, nemmeno l'uomo del 12.000 potrà sopportarlo. Io ho una curiosità, se volessi fare delle foto, perché cioè adesso non è che vado su Urano o su Mercurio e non porto un ricordino a casa, cosa posso fare? Bernagozzi? Secondo me uno dei panorami più spettacolari da fotografare è sicuramente quello che si può vedere dalla cima del Monte Olimpo su Marte, la montagna più alta del Sistema Solare, alta 3 volte il Monte Everest, e quando si è sulla cima, oltre a ammirare il bellissimo panorama marziano, si riesce addirittura a vedere la curvatura dell'orizzonte del pianeta, perché il Marte è così grande, la metà della Terra, e la montagna è così alta che si riesce proprio a vedere che sei su un pianeta rotondo. Ma posso andare con la mia fotocamera digitale normale? Beh, la fotocamera digitale dell'anno 12.009, ovviamente. Giusto. Certo. Si chiamerà Olocamera. Ah, ecco, Olocamera. Precisiamo. Allora, Seconda Stella Destra è il libro di cui stiamo parlando, edito da Sironi, guida turistica al Sistema Solare. Io aggiungo soltanto che ci sono molte cose divertenti, ma è anche pieno di informazioni dense su come funziona il Sistema Solare, come funzionano i pianeti e le loro atmosfere. Siamo verso la... Sì, Federico, siamo verso la conclusione, però non possiamo non risolvere il nostro quiz. Anche gli ascoltatori e anche io vorrei sapere che cos'è il terraforming. Allora, chi ci dà la risposta? Cenadelli, ce la dia lei. Terraforming è il più grande progetto ingegneristico spaziale che si possa immaginare. Consiste nella trasformazione di un altro pianeta in un pianeta simile alla Terra per quanto riguarda le condizioni superficiali di atmosfera respirabile, temperatura accettabile e crescita di organismi viventi di cui l'uomo si alimenta. Quindi trasformare un altro pianeta come Marte in un pianeta simile alla Terra. Ecco, non so se questa sia una prospettiva positiva o negativa, lo lasciamo. E loro ci mandano su Marte dove è già in atto il terraforming, no? Bernagozzi. Assolutamente. Nel libro, nell'anno 12.009, Marte è belle che terraformato, e quindi al posto dei deserti di sabbia rossa ci sono praterie, boschi, foreste, c'è addirittura un oceano. Ma la cosa interessante da dire è che questo progetto fantastico è un progetto reale, assolutamente futuribile. Cioè già adesso, mentre stiamo parlando, c'è chi sta pensando di operare questi, nel futuro molto lontano, ben più in là del 12.009 della nostra fantasia, di operare questi cambiamenti climatici su altri pianeti. Se sia opportuno o meno, come dicevate voi in studio, è tutto da valutare. Però già adesso si sta pensando, perché lì nel principio le si basi tecnologiche potrebbero essere già esistenti. Si può fare, la frase di questi tempi. Si può fare, si può fare. Possiamo chiudere ipotizzando un budget. Quanto ci servirebbe per poter fare questo giro sul nostro sistema solare? In euro? Cenadelli? Beh, diciamo che sfruttando di tantissimi pacchetti speciali, le offerte cumulative e anche il fatto che il turismo, diciamo, del 12.009 conosce anche come quello attuale dei periodi di crisi, quindi gli albergatori sono disposti a offrire pacchetti particolarmente convenienti, con qualche migliaio di astrocrediti ci si può già fare qualche settimana di vacanza. Bene, magari insomma, utilizzare un last minute, adesso vediamo. Last pico second. Benissimo. Allora, grazie Andrea Bernagozzi, grazie Davide Cenadelli, ricordiamo il titolo del libro, Seconda Stella a Destra, edizione Sironi. Buona serata. Grazie a tutti. Arrivederci a tutti. Buonasera. Con quello che sto per dirvi lasciamo il tema spaziale che ci ha accompagnato in questa prima parte della trasmissione, le grandi scoperte della scienza. Di questo vi parlo ora brevemente, è una serie di DVD che sono in edicola a partire da questa settimana insieme al Sole 24 Ore. Giovedì è uscito il primo, che tratta... Einstein riteneva che il suo modello di spazio curvo spiegasse lo spostamento dell'orbita di Mercurio. Questi studi confluirono nella sua teoria della relatività generale. Ecco, avete sentito un breve passaggio da questo primo DVD dedicato all'astronomia. Vi comunico in conclusione che questa serie di 8 DVD che attraversa tutte le aree della scienza è una collaborazione fra Discovery Channel, marchio storico della documentaristica scientifica, e Il Sole 24 Ore, a partire da questa settimana. Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. Molte cose nuove e importanti si stanno delineando all'orizzonte dell'agricoltura. Credo che nel prossimo decennio questo cruciale settore delle attività umane subirà una vera e propria rivoluzione tecnologica. Un aspetto fondamentale di questa rivoluzione è il risparmio energetico. Ve ne parla Maurizio Menis. Siamo alla fiera di Rho, a Tutto Food, fiera dedicata al cibo, nella quale è impossibile entrare senza avere reazioni fisiologiche come salivazione accelerata o roba del genere. Abbiamo appena assistito ad un breve seminario sul tema del risparmio energetico nella filiera agroalimentare, in collaborazione con Agrimercati, che organizzava questi seminari, e abbiamo incontrato Riccardo Guidetti e Valentina Giovenzana del DIA, cioè il Dipartimento di Ingegneria Agraria dell'Università di Milano. Ma cerchiamo di capire un po', insomma, che cosa sta succedendo in questo campo e se ci sono delle opportunità per chi vuole risparmiare un po' di energia, che oggi come oggi sta diventando sempre di più un termine significativo, diciamo, dei costi di produzione. Iniziamo con lei, Guidetti. Dunque, lei insegna macchine e impianti per l'industria alimentare all'Università di Milano, poi un altro paio di corsi, non entriamo nel dettaglio. Intanto le chiedo un minimo di quadro rispetto alle potenzialità di risparmio energetico nel settore agroalimentare. Diciamo che i dati che si hanno a disposizione relativamente alle potenzialità indicano fondamentalmente in un 15% all'incirca, e sono dati ufficiali della Comunità Europea, la possibilità di risparmiare semplicemente con dei comportamenti virtuosi nella gestione dell'energia. Mentre se passiamo a quelli che possono essere degli interventi più sostanziali all'impianto, e quindi diciamo così interventi finalizzati a modificare determinate parti, allora in questo caso abbiamo un risparmio che può essere dell'ordine del 10-30%, che potrebbe addirittura arrivare a un 40% se la cosa viene fatta in concomitanza con degli interventi strutturali a livello aziendale. Ecco. Va bene, facciamo qualche esempio. Valentina Giovenzana, dunque, qualche caso concreto? Ad esempio, ultimamente ci è capitato di fare un'analisi in un'azienda che produce trippa originale, e in cui loro già stanno operando delle modifiche della struttura aziendale, e quindi in quel caso abbiamo consigliato appunto il recupero di calore per la cottura appunto dell'alimento in questione, e quindi recuperare del calore per preriscaldare l'acqua di cottura, questo calore preso dal gruppo frigorifero, quindi dal lavoro del condensatore e del compressore mediante uno scambiatore appunto di calore. Ricordiamo che un frigorifero l'80-90% della potenza che consuma finisce in calore buttato fuori. Esatto, di solito si parla di una percentuale che va dal 60-90%. Quali sono i temi più caldi in termini di risparmio energetico? Qui avete parlato di recupero di calore, c'è un altro esempio significativo da questo punto di vista? Sì, ad esempio l'applicazione dell'inverter ai motori, cioè un modulatore praticamente di frequenza della corrente elettrica, non facendo lavorare il motore sempre al 100%, ma variando appunto la percentuale di lavoro in funzione della quantità che devo effettivamente lavorare, per appunto non sprecare energia. Una cosa nota purtroppo è proprio questa, che la maggior parte dei motori elettrici che funzionano a regime variabile funzionano un po' come se voi guidaste l'automobile tenendo il piede al massimo sull'acceleratore e regolando la velocità col freno, che è una palese assurdità. Ecco, ancora lei, Guidetti, qual è il settore dell'agroalimentare nel quale probabilmente ci sono più potenzialità di risparmio energetico? E mi metto nei panni di uno di questi signori. Che tipo, per esempio, di lavorazioni devo avere in casa perché debba scattare dentro di me la domanda: forse qui c'è un potenziale di risparmio energetico elevato? Beh, guardi, se dovessi pensare ad un settore, sicuramente il settore lattiero-caseario costituisce ad oggi un settore dove il consumo energetico è piuttosto elevato, perché le potenze installate tendenzialmente sono molto elevate, ed è un settore dove c'è l'esigenza sia del caldo che del freddo contemporaneamente, quindi uno può andare a supporto dell'altro con i discorsi che faceva prima la dottoressa Giovenzana. È un settore dove la movimentazione è molto spinta, quindi pompe o cose di questo genere sono molto presenti in azienda. È un settore che si caratterizza solitamente per ambienti molto grandi, quindi pensi anche all'illuminazione e ai risparmi che si possono fare nell'ambito dell'illuminazione, per cui lo vedrei proprio come un ambito dove sia possibile applicare un po' tutti questi principi ottenendo dei risultati sicuramente interessanti. Ecco. Quindi devo, come dire, farmi qualche domanda: se per esempio ho molto bisogno di riscaldare e raffreddare, molto bisogno di pompare liquidi o roba di questo genere, mi fa un altro esempio? Beh, ecco, un altro esempio tipico del settore alimentare è quando ci sono dei sottoprodotti che possono essere riutilizzati, cioè il fatto che spesso ci sono degli scarti, tanto per intenderci, che devono essere eliminati o cose di questo genere. In questo caso c'è la possibilità invece di recuperare energia eventualmente da questi scarti stessi. Ecco, peraltro la legislazione è venuta a supporto, nello specifico pensiamo al settore enologico, per esempio, dove da un anno a questa parte i sottoprodotti del processo sono stati assimilati alle biomasse. Questo è sicuramente un ambito, apre molte prospettive anche nel settore enologico. Ecco. Grazie a tutte e due. Bisogna impegnarsi a pensarsi europei. L'Europa è il nostro paese. Per entrare sempre più in questo modo di sentire e pensare sono utili le riflessioni su quanto si fa già tutti insieme. Allora, la Commissione europea, con fondi cui tutti contribuiamo, finanzia molta ricerca scientifica. E fra questa ricerca, quale ha prodotto risultati migliori? Ve ne parla Barbara Gallavotti. La Commissione europea ha distribuito un libro, grande formato, carta patinata, copertina rigida, interamente occupata da un ologramma nel quale si legge «Ricerca per l'Europa, una selezione di storie di successo». Al suo interno, in breve, racconti di ricerche finanziate dalla Comunità europea, i fiori all'occhiello, divisi per argomenti. Vediamo allora un po' di esempi di come sono stati investiti i fondi della ricerca. Soldi dei contribuenti, cioè di noi tutti, come quindi sono un po' di noi tutti i risultati raggiunti. Cominciamo da un settore davvero cardine per lo sviluppo economico, quello dell'energia. 30 istituzioni di 10 paesi europei, Italia inclusa, hanno partecipato al progetto Castor, finalizzato a sviluppare una tecnologia in grado di catturare l'anidride carbonica emessa dalle centrali a carbone. Insomma, un modo per impedire che le emissioni di carbonio si disperdano nell'atmosfera. La tecnologia è stata poi sperimentata in una centrale pilota costruita in Danimarca. Ne è risultato che può essere catturata una tonnellata di anidride carbonica ogni 4 emesse, al costo di 35 euro per tonnellata. È un costo contenutissimo se consideriamo che in base agli attuali regolamenti le centrali devono pagare 100 euro per ogni tonnellata di anidride carbonica in eccesso dispersa nell'atmosfera. Una volta catturata, però, l'anidride carbonica deve essere immagazzinata da qualche parte, a meno che non venga in soccorso un altro progetto nato da un'idea dei ricercatori dell'Università di Messina. In questo caso l'anidride carbonica potrebbe essere addirittura usata come combustibile, cioè come una nuova fonte di energia. Voltando totalmente pagina, troviamo le ricerche nel settore salute. Diverse vertono sulla lotta alle malattie, quelle causate dai nuovi virus, come pure quella provocata dal grande nemico ancora imbattuto, l'HIV. Oltre 40 gruppi di ricerca provenienti da 21 paesi, anche qui Italia inclusa, si sono invece concentrati sullo studio dei trattamenti personalizzati per tumori al seno. Secondo i dati, quelli del 2006, i più recenti attualmente a disposizione, in quell'anno il tumore al seno ha colpito 320.000 europee, uccidendone 85.000. Ebbene, come noto, le cellule tumorali possono essere devianti in molti modi diversi, a seconda di quali geni le hanno fatte impazzire. Per trovare la terapia giusta per ciascuna donna, il progetto ha puntato allo sviluppo di un metodo per identificare in modo rapido i livelli di attività di 70 geni coinvolti nel tumore. In questo modo si mira a evitare che diverse pazienti ricevano chemioterapici quando non ne avrebbero bisogno. L'Università di Pisa e altre istituzioni hanno invece puntato allo sviluppo di un pancreas artificiale da impiantare in pazienti diabetici. Nel settore ambiente, il progetto Arca di Noè si è posto il problema di come proteggere dai cambiamenti climatici una risorsa decisamente non rinnovabile, il patrimonio artistico europeo. E in effetti le costruzioni e i monumenti in pietra sono molto sensibili agli sbalzi di temperatura. Questo è particolarmente vero per i marmi, che si dilatano e contraggono in risposta ai salti del termometro. I paesi nordici sono particolarmente preoccupati invece del destino delle preziose strutture in legno, che potrebbero diventare preda di funghi e altri parassiti. Mentre a Parigi guardano con terrore alla Torre Eiffel, come tutto ciò che è in metallo potrebbe corrodersi per colpa degli acidi contenuti nell'aria, particolarmente nefasti se la superficie il monumento fosse bagnata da piogge troppo frequenti. Insomma, nell'ambito del progetto sono state utilizzate simulazioni per capire come i monumenti reagiranno ai cambiamenti climatici, così da poter pianificare delle strategie di difesa del nostro patrimonio culturale. E chiudiamo, saltando un bel po' di pagine, con la buona cucina. I fritti, ad esempio, croccanti, dorati, non troppo dorati però, perché tanto più la doratura si fa intensa, tanto più nell'irresistibile stuzzichino si sviluppano molecole di acrilamide, molecola probabilmente cancerogena. cancerogena. Il progetto ETOX, con la collaborazione dell'Università di Bologna, ha sviluppato alcune linee guida per ridurre la produzione di acrilamide sia nelle preparazioni in larga scala che in quelle domestiche. Per le patate, ad esempio, si consiglia ai grandi produttori di utilizzare qualità a basso contenuto di zuccheri, friggendole a una temperatura compresa fra i 145 e i 170 gradi centigradi. A casa, invece, il consiglio è di friggere per il minor tempo possibile, perché la produzione di acrilamidi cresce drasticamente quando il colore del cibo passa dal dorato al bruno. Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. Lo so che quando si è grandi questa cosa sembra strana, ma è così. Molti aspetti fondamentali del nostro comportamento si decidono nei primi mesi della nostra vita, al massimo 2 o 3 anni. Ascoltate Chiara Albicocco. Ricordare e riconoscere il volto di una persona per alcuni è un gioco da ragazzi, per altri è veramente complicato. La spiegazione a questo tipo di attitudine andrebbe ricercata nelle esperienze che abbiamo avuto nei primi anni di vita. E questo è proprio quanto emerge da una ricerca recentissima che proviene dai laboratori di psicologia dell'Università Milano Bicocca. Ci racconta tutti gli esperimenti che sono stati condotti la professoressa Viola Macchi Cassi, appunto del Dipartimento di Psicologia dell'Università Milano Bicocca, che questa sera è qui con noi e che ha coordinato i lavori. Buonasera professoressa. Buonasera. Dunque, se lei è d'accordo, io prima di passare alle conclusioni importanti a cui siete giunti, racconterei le fasi sperimentali, quello che noi di Mebius chiamiamo il teatro sperimentale. Da chi era composto? Questo studio si compone di 3 esperimenti. In ciascun esperimento abbiamo testato gruppi di individui diversi. Sì. Allora, nel primo studio abbiamo testato bambini di 3 anni, di età media intorno ai 3 anni, divisi in 2 gruppi. Un gruppo aveva avuto un fratello più piccolo, per un gruppo di bambini era nato un fratello più piccolo intorno ai 2 anni di vita, e l'altro gruppo invece era sempre composto da bambini di 3 anni senza un fratello più piccolo. Figli unici, ok. Esatto, figli unici. Nel secondo studio invece abbiamo testato un gruppo di giovani donne caratterizzate dal fatto di essere madri primipare, quindi al loro primo figlio, e con un figlio di età media intorno ai 9 mesi. Ok, quindi proprio anche neonato. Sì, esatto. Anche in questo caso le madri erano divise però in 2 gruppi. Un gruppo aveva avuto intorno ai 2 anni di vita un fratello piccolo, l'altro gruppo invece erano o figli unici oppure con fratelli più grandi, ma non fratelli più piccoli. D'accordo. Poi c'è un terzo gruppo. Il terzo gruppo è composto da sempre giovani donne equiparate per età con le madri, però donne che non hanno avuto figli, non hanno avuto anno di vita, nessun rapporto con neonati o bambini di tenera età. Ecco. Esatto, però hanno avuto intorno ai 2 anni di vita la nascita, hanno sperimentato la nascita di un fratello più piccolo. Benissimo, e questi sono i nostri attori. Che cosa hanno fatto, o meglio, che cosa gli avete fatto fare? Allora, il compito era uguale per tutti e 3 i gruppi. Ciascun soggetto è stato messo di fronte allo schermo di un computer, veniva mostrato al centro dello schermo un volto che poteva essere per ogni soggetto o di neonato o di adulto. Per un breve periodo, sui 5 secondi più o meno? 5 secondi per i bambini di 3 anni e 1 secondo per gli adulti. Okay. E successivamente, immediatamente dopo che il volto al centro dello schermo scompariva, comparivano 2 volti, uno a destra e uno a sinistra dello schermo, e il soggetto doveva rispondere quale dei 2 era quello che aveva visto pochi secondi prima. Bene, esperimento semplice. E allora, quali sono state le conclusioni? Allora, noi abbiamo registrato l'accuratezza della risposta, quindi quanti errori i soggetti facevano, e forse è necessario che spieghi questa cosa prima di passare ai risultati, la logica con la quale abbiamo scelto questi 3 gruppi. Noi abbiamo studiato i bambini di 3 anni con o senza un fratello minore, perché la nascita di un fratello minore ci ha consentito di studiare gli effetti che l'esperienza con un neonato poteva avere se questa esperienza veniva fatta precocemente, quindi nei primi 2 anni di vita. Certo. Con la stessa logica, la nascita di un figlio per le giovani donne adulte serviva a verificare gli effetti che un'esperienza analoga a quella della nascita di un fratello, che portava quindi all'esposizione a un individuo appartenente alla categoria dei neonati, può avere se acquisita in età adulta. Okay. I nostri risultati hanno dimostrato che l'esperienza precoce con un neonato si è acquisita nei primi 2 anni di vita, come nel caso dei bambini di 3 anni, ha un effetto sulla capacità di riconoscere i volti di neonato. Quindi i bambini con fratelli minori erano ugualmente bravi a riconoscere i volti di neonato piuttosto che i volti di adulto, mentre i bambini di 3 anni senza fratello erano significativamente più bravi a riconoscere i volti di adulto piuttosto che quelli di neonato. Quindi avevano delle quelli difficoltà. Di neonato avevano delle difficoltà. Esatto. La cosa interessante è che se andiamo a vedere cosa succede nei due gruppi di mamme, invece, vediamo che le mamme senza un fratello più piccolo, che non hanno avuto l'esperienza precoce, invece non mostrano nessuna variazione nella loro capacità di riconoscere i volti di neonato a causa del fatto di essere stati esposti a un volto di neonato con la nascita del loro figlio. Quindi le madri senza un fratello minore si comportano praticamente come i bambini di 3 anni senza un fratello minore. L'unico gruppo che manifesta invece un miglioramento, come dire, nelle capacità di riconoscere i volti di neonato è quello delle madri che però da piccole hanno avuto un fratello minore. Quindi quelle che sono state esposte ad un'esperienza maggiore nei confronti di neonati. Sì, più che maggiore direi un'esperienza precoce, ripetuta. Nel senso che quindi il gruppo di mamme con fratelli minori si comporta praticamente come i bambini di 3 anni con fratelli minori, cioè sono ugualmente bravi a riconoscere i volti di adulto piuttosto che quelli di neonato. Noi concludiamo che la capacità di riconoscere i volti di neonato in questo gruppo di madri è influenzata quindi dall'aver avuto un fratello minore quando erano piccole. Sì. Possiamo dire questo perché grazie diciamo ai risultati del terzo esperimento nel quale, come dicevo, abbiamo esaminato sempre la prestazione nello stesso compito di un gruppo di giovani donne di età comparabile alle madri, ma non madri, quindi senza figli, che però avevano avuto un fratello minore da piccole, quindi la logica era di avere un gruppo che aveva avuto solo esposizione a un neonato in età precoce, ma senza la simile esperienza acquisita in età adulta. Quindi è stata una sorta di prova. Sì, un gruppo di controllo, possiamo dire, i cui risultati hanno dimostrato che questi individui, nonostante avessero fatto esperienze in età precoce con un neonato, non mostravano di essere ugualmente bravi nel riconoscere i volti di neonato e quelli di adulto. In questo gruppo gli effetti dell'esperienza precoce acquisita nei primi 2 anni di vita apparentemente sono scomparsi, perché queste donne non sembrano aver fatto tesoro dell'esperienza che hanno acquisito in età precoce. Si comportano praticamente come i bambini di 3 anni senza fratelli, come le mamme senza fratelli. Questo ci ha permesso di concludere che allora quello che abbiamo osservato nel gruppo di madri con fratelli minori è effettivamente il risultato, come dire, della somma dell'effetto cumulativo delle due esperienze, e ci ha anche permesso di concludere che allora l'esperienza precoce fatta nei primi 2 anni di vita, che apparentemente nelle donne adulte non madri del terzo esperimento sembrava non avere lasciato traccia, in realtà probabilmente una traccia l'ha lasciata, ma questa traccia, questo segno è dormiente, diciamo latente, pronto ad essere invece risvegliato da una nuova esperienza acquisita in età adulta, come appunto nel gruppo di madri con fratelli minori. Gli appanati politici e la conoscenza della ricerca scientifica sono spesso due poli separati. Fisica per presidenti è il libro di cui vi parla adesso Maurizio Melis. Se hai in mente di fare il presidente degli Stati Uniti, ci sono poche cose di fisica che dovresti assolutamente sapere. Allora capiresti che la bomba sporca non è una vera minaccia ed è molto improbabile che dei terroristi riescano a costruire una bomba atomica, invece potrebbero comprarla. Ti sarebbe chiaro che lo spazio è un buon posto dove vivere. Beh, soprattutto se sei un robot. In tema di energia, terresti sempre presente che un chilo di benzina contiene 15 volte più energia di un chilo di tritolo e 2 volte più di un chilo di metanolo, ma anche di biscotti con le gocce di cioccolato. Saresti certo che il cambiamento climatico esiste e che c'è solo il 10% di possibilità che non sia causato dall'uomo. E poiché se ci fosse il 90% di possibilità che un rapinatore facesse irruzione in casa tua, cercheresti senz'altro di fare qualcosa, ecco che allora, tra le cose che dovresti fare, ci sono le centrali a carbone con sequestro sotterraneo dell'anidride carbonica. Se sapessi la fisica, probabilmente penseresti sia meglio non riporre troppe aspettative nell'idrogeno e ti concentreresti invece sul solare, su tutti i tipi di solare. Avresti un atteggiamento pragmatico verso il nucleare, nessuna preclusione quindi, ma a patto di affrontare una volta per tutte la questione delle scorie, cosa possibile. E poi comunque meglio puntare ai reattori di quarta generazione, quelli a letto di sfere, ormai sono pronti. Ma soprattutto, sopra ogni cosa, riterresti decisivo investire nel risparmio energetico, perché è lì che si trova la riserva di energia di gran lunga più ampia e a portata di mano. Beh, questa è una sintesi brutale di quanto dovresti sapere secondo Richard Müller, noto fisico, divulgatore scientifico e già consulente della Casa Bianca, se per caso stessi pensando di fare il presidente degli Stati Uniti. Nell'edizione italiana, a cura di Codice Editore, hanno tolto degli Stati Uniti. L'hanno tolto sia dal testo che dal titolo, che è diventato Fisica per i presidenti del futuro. E hanno fatto bene, perché Müller spiega con un linguaggio estremamente chiaro e semplice la fisica che un capo di governo dovrebbe conoscere per comprendere i termini generali di problemi come la proliferazione nucleare, la gestione delle scorie, la differenza tra le varie fonti di energia, il problema del riscaldamento climatico, le opportunità e i limiti dell'esplorazione spaziale. E alla via così, lasciandosi dietro le macerie di una quantità di luoghi comuni e di dicerie. Müller, per la verità, cerca di evitare conclusioni, anche se, insomma, l'avrete capito, inevitabilmente emergono dal testo. Ma ci sono due margini entro cui Müller cerca di mantenersi senza mai sbordare. La fisica, ogni volta che vuole mettersi al riparo dal rischio che le sue parole siano scambiate per opinioni. E la politica, ogni volta che si entra, invece, nel campo delle opinioni. Fisica e politica sono le due parole con cui più spesso chiude il paragrafo o il capitolo. In mezzo ci sono le poche ma fondamentali certezze che la scienza sa offrire. Siamo in conclusione, vi ricordo il concorso che abbiamo lanciato all'inizio. Sostituisci la famosa frase di Neil Armstrong con quello che avresti detto tu sbarcando sulla Luna. E la frase migliore può vincere un vero pezzettino di Luna. Sul nostro sito lo trovate digitando Mebius Scienze in qualunque motore di ricerca, tutti i dettagli. Buona serata e alla prossima settimana. Radio 24 e Fondazione Sigma Tau vi hanno presentato Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza.